goddamn bunch of info! Es una mierda de mierda, aspecto, pero no me deja de temblar. Si usted es el cuco, patrón, si usted es el cuco, pedirá. Cuando oggi mangio silenzio nella stessa direzione, oggi votano a guardare, oggi votano a capire, quante mente derubate i cervelli dentro, troppo ricche per potersi sporcare. Non mi chiedere della voce che sono i soliti, sono di guerra, della ragazza che mi chiede le particole, guerra e mangio della patria. Oggi faccio silenzio nella stessa direzione, oggi voltano a guardare, oggi voltano a capire, quante teste derubate i cervelli dei tamaldofori, potete sboccare. Nessuna media di merda al petto, per una verità esemplare, su tutti per cui combattere, su tutti per competire. Ogni marcia silenzio è la stessa direzione, ogni volta a guardare, ogni volta a capire, quante teste ne rubate i cervelli dei tuoi mai troppo ricche, senza sporcare. C'era una stanza, Loris! Bye bye. Ok, piccola pausa, vabbè, ci voleva. E poi Bruno dai, chiama tutti insieme Bruno, cari, eccolo qua. Olè. Ciao cappellone, come tutto bene? Bravo cappellone. Due pezzi e ce ne andiamo. Dai che siamo belli, che è arrivati alla fine. È già pure un po' tardino. Tra poco ci manderanno via. Quindi diamoci da fare. Dovete ancora... facciamo un pezzo. Un pezzo, ok? Alla fine. Mi dicono zero pezzi. Dai, uno veloce, dai. Aspetta, ok, poi. Thank you.